Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: torneremo a occuparci del TAP, ossia il gasdotto che dal Mar Caspio deve portare gas in Europa e ha quella famosa pezzetto in Puglia, perché dopo il via libera invece del governo, dopo che il Ministero dell'Ambiente e il Consiglio di Stato hanno ribadito il via libera, oggi ci sono state alcune proteste e cariche della polizia contro l'espianto di 200 ulivi sul tracciato del microtunnel. Sono 8 chilometri. Ricordo ancora una volta che gli ulivi non verranno tagliati, ma solo espiantati temporaneamente e poi riposizionati nella sede originaria una volta completati i lavori, perché in quell'area deve entrare in azione la talpa, e quindi il mezzo che farà questo tunnel da 8 chilometri. L'opera sarà a 10 metri di profondità, per metà sottoterra e per metà sotto i fondali. Comunque la vicenda, come abbiamo detto molte volte, riguarda non solo il TAP, ma l'atteggiamento anche in questo paese quando c'è un'opera di carattere infrastrutturale. In questo caso devo dire che l'impatto è veramente minore, ma anche il ruolo della politica. Abbiamo cercato il governatore della Regione Puglia Emiliano, oggi evidentemente è impegnato, ma contiamo di averlo, perché avevamo criticato la sua posizione. Tra l'altro, la domanda che molti vi fanno è: ma se Emiliano, che è candidato alle primarie del PD, dovesse vincerle e dovesse essere poi, la prospettiva è quella chiaramente se non si candida alle primarie, diventare presidente del Consiglio, ammettendo che dovesse vincere il PD, ma insomma l'ipotesi è quella con tutti i candidi alle primarie, cosa faresti da presidente del Consiglio? Daresti ragione a chi protesta o tuteleresti l'interesse nazionale, che è quello di avere un gasdotto con buona pace dei 220 ulivi da espiantare? Questo è il tema oltre ai 220 ulivi, non è che facciamo la puntata sui 220 ulivi. Allora, e questo per quello che riguarda un tema. Gli altri temi riguarderanno la Cassa di Risparmio di Genova, perché Carige farà l'azione di responsabilità contro gli ex vertici Montani, Castelbranco e Amissima, perché riguarda lo sconto con il fondo americano Apollo, nel senso che nel 2014 i due manager decisero la vendita della compagnia di assicurazione della banca ad Amissima, controllata dal fondo Apollo, per 310 milioni di euro, nonostante fossero state presentate offerte di maggiore ammontare. Apollo è azionista di Carige con lo 0,1%, e questo dopo la condanna già avuta dall'ex presidente Berneschi a 8 anni e 2 mesi nell'ambito del processo per la maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova. Comunque, di questo parleremo. In apertura andremo a vedere anche che cosa sta facendo il mondo della moda italiana, nel senso che oggi è nata una nuova federazione che unisce le imprese della moda associate al Sistema Moda Italia da un lato e Federazione Italiana dell'Accessorio Moda e Persona. Quindi include Associazione Italiana Manifatturieri, Pellettieri, Anfao, Asso Calzaturifici, Federografi, Anfao vuol dire gli occhiali. Perché questo? Perché da tempo si dice che il sistema moda italiano ormai non è più la moda intesa come prêt-à-porter, una moda classica insomma degli anni 80 e 90, ma è il sistema che ruota attorno appunto abbigliamento, ma anche calzaturiero, oggetti dell'oreficeria italiana, dell'occhialeria, della pelletteria, e quindi l'idea è che tutto quello venga messo a sistema e abbia una maggior forza d'urto. Ne parleremo, perché insomma su questo l'operazione è un'operazione positiva. Più volte si è detto che non avesse senso avere questi sistemi che vanno sotto il nome di Made in Italy nello stile, nel design, separati tra di loro, e ne parleremo con chi sarà, con chi è di fatto già il nuovo presidente di Confindustria Moda. Per quello che riguarda la borsa invece, oggi positivi tutti i mercati: Milano più 0,70, Parigi mezzo punto percentuale, Francoforte più 1 0,30%, Londra più 0,60, euro su dollaro a 1,0856, quindi poco mosso. Segnalo che molto molto forte oggi, soprattutto Tenaris, che guadagna il 7,98%, quasi l'8%, e Saipem più 5,25%, quindi titoli legati al settore petrolio e costruzioni nel mondo del petrolio, per dire così, perché c'è un rialzo del barile a $48 per quello che riguarda il WTI. In realtà è anche un pretesto. Bene Fiat Chrysler più 2,80, Moncler più 2%, Exor più 1,70, Case New Holland più 1,5%. Fronte opposto vede cali molto contenuti, Boots Unice meno 1,40, ricordati meno 1,20, Terna meno 1%. 349-238-6666 è come sempre il numero per gli SMS e WhatsApp, e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, partiamo dall'economia internazionale. Cala ai minimi dalle elezioni il consenso su Donald Trump dopo il naufragio della riforma sanitaria, è sceso al 36%, nei tre giorni prima era al 41%, il punto più basso era stato segnato a metà marzo, al 37%, ma insomma Trump ha sempre viaggiato intorno al 42% di consenso con un picco fino al 46%. Il nuovo record negativo di Trump è 2 punti sotto anche quello di Barack Obama, 38% nel 2011 e nel 2014, e sotto di 1 punto anche Bill Clinton, 37%. Per, così, per curiosità, presidenti che hanno ottenuto un consenso peggiore di quello toccato da Trump, 36%, sono stati George W. Bush il 25%, Jimmy Carter il 28%, Richard Nixon il 24%, George Bush 29% e Ronald Reagan 35%. Trump ha ancora davanti 4 anni. Qui stiamo dicendo qual è il picco minimo raggiunto in questi mandati presidenziali dai presidenti precedenti. E Trump ha chiesto formalmente $1 miliardo per i primi 100 chilometri di muro contro il muro con il Messico. I fondi serviranno per le riparazioni di alcune infrastrutture di confine già esistenti e per la costruzione di 77 chilometri di muro nuovo. La Casa Bianca ha anche confermato che punta a tagliare $18 miliardi da programmi sociali, quindi welfare, per finanziare l'aumento del budget del Pentagono e il muro con il Messico. I democratici lo attaccano, vuole tagliare i fondi per la ricerca sul cancro per pagare il muro. Muro che dovrebbe costare circa $20 miliardi. Uno la può pensare come vuole. Mi chiedo se l'elettore di Trump, che come abbiamo raccontato molte volte, veniva anche dalla cerchia della ruggine, dalla Rust Belt dell'America, diciamo manifatturiera, della produzione automobilistica, ma non solo, fosse così interessato ad avere maggiori investimenti nel settore difesa e migliori investimenti nel welfare. Se presumiamo, come abbiamo detto molte volte, che una buona fetta dell'elettorato di Trump fosse della fascia delle classi sociali medie, medie basse, più colpite, più impaurite, mi sembra che non dovrebbe essere questo l'obiettivo, cioè che non l'abbiano eletto per fargli aumentare la spesa in difesa e diminuire la spesa in sanità o in welfare, però... Andiamo all'Italia, la manovra di primavera sarà di stimolo alla crescita, 1 miliardo a zona terremotata, così il premier, così il ministro dell'economia Padoan. Il DEF, il documento economico finanziario che il governo deve preparare nelle prossime 2 settimane, non deprimerà ma incoraggerà la crescita. Il fondo per il terremoto da 1 miliardo, così sempre il premier Gentiloni, non inciderà sull'indebitamento netto, e poi ha aggiunto il pacchetto per il terremoto conterà almeno 1 miliardo, ma stiamo lavorando per avere risorse più ingenti. DEC, se volete, faremo insieme il DEF e il DEC. Correttivo è per il sostegno alla crescita, nel quale inseriremo un fondo per la ricostruzione delle aree colpite dai terremoti di questi mesi, che sarà un fondo molto rilevante dell'ammontare di oltre 1 miliardo all'anno per i prossimi 3 anni. È una scelta che caratterizzerà il decreto correttivo per la crescita di metà aprile e che credo sia molto importante come messaggio della continuità degli sforzi che il governo e tutte le istituzioni intendono fare per le aree colpite dai terremoti. A chi mi chiede se parleremo anche del Sole 24 Ore, sì, adesso vi arriviamo perché c'è stata anche l'audizione del presidente del gruppo Sole 24 Ore oggi, però andiamo ancora con il premier Gentiloni, perché le dichiarazioni che avete ascoltato sono state fatte al termine dell'incontro con i presidenti delle regioni colpite dal terremoto. Tra l'altro il commissario straordinario per ricostruzione Vasco Errani ha detto è partita una nuova fase che va verso la normalità, lo ha raggiunto, o meglio ascoltiamolo al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Il Presidente del Consiglio, che ringrazio, ha preso degli impegni molto significativi, intanto relativi alla prospettiva di questo intervento di correzione e crescita, con la scelta di sostenere, questo era un obiettivo che ci siamo proposti, di sostenere le imprese e l'economia di questi territori, quindi zona franca dal punto di vista fiscale e dal punto di vista contributivo, interventi ulteriori per quello che riguarda il sostegno ai comuni. Abbiamo ormai completato l'impianto sostanziale della ricostruzione, è alla Corte dei Conti anche l'ordinanza per i danni gravi, quindi imprese, danni lievi, danni gravi, scuole. Siamo dentro ad un impianto che ormai ha una sua solidità e quindi si avvia una fase nuova che porterà ad una normalità nella funzione delle regioni e delle autonomie locali, dei comuni e delle province. Credo che oggi sia una giornata importante. E sempre sul terremoto, visto appunto l'incontro oggi tra il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Regioni colpite dal terremoto, ascoltiamo sempre al microfono la nostra Alessandra Schepisi, anche il Presidente della Regione Lazio Zingaretti, che ha ribadito come la certezza di una copertura finanziaria sia fondamentale per le regioni colpite. L'annuncio dato oggi della prospettiva di questa copertura finanziaria su misure per la ricostruzione, penso alle zone franche, è un'altra grande passo in avanti che dà a tutto l'impianto certezza, solidità e velocità. Allora, e a che cosa serviranno questi soldi, cioè il miliardo annunciato per i prossimi 3 anni, 1 miliardo all'anno per i prossimi 3 anni, quindi a casa nostra sono almeno 3 miliardi. La nostra Alessandra Schepisi lo ha chiesto al presidente della regione Umbria, Catiuscia Marini. Ha annunciato 1 miliardo di euro per ogni anno e a valere in maniera pluriennale. Questa è la garanzia anche della certezza delle risorse per la ricostruzione e per farci affrontare anche un programma della ricostruzione, sia ovviamente di quella privata, ma in modo particolare anche di quegli interventi pubblici che sono fondamentali, dalle infrastrutture e beni culturali, per ripartire concretamente. Quindi la definizione del quadro normativo insieme alle risorse finanziarie ci permette di entrare, di passare, diciamo, dalla fase dell'emergenza anche alla fase della ricostruzione. Questo miliardo per cosa servirà? Quale bisogno in particolare? Beh, servirà una parte per la ricostruzione e una parte anche a sostenere in materia fiscale imprese e persone che vivono in queste comunità, anche sperimentando delle forme incentivanti. Il Presidente ha parlato di zone franche, comunque delle forme che servono a rianimare anche il tessuto economico produttivo di queste terre. Allora, ancora due notizie sull'Italia, prima di arrivare a Sole 24 Ore, visto che ne ha parlato oggi sia il presidente di Confindustria che l'azionista di riferimento con il 67% e mezzo del capitale, che il presidente Sole 24 Ore Giorgio Fossa in audizione in Commissione Riunite Finanze, Cultura e Attività Produttive della Camera. Allora, le dichiarazioni di ieri del ministro del Lavoro Poletti. Cosa volete che vi dica? Che uno deve imparare a star zitto e parlare con attenzione? Che già c'è stato uno scivolone pesante sui giovani che vanno all'estero, non ne sentiremo una mancanza, e poi due giorni per correggersi. Allora, Poletti ieri ha detto: per trovare lavoro, riferito ai giovani, il rapporto di fiducia è un tema sempre più essenziale. In questo ambito si creano più opportunità a giocare a calcetto che mandare in giro i curricula. Oggi ha cercato di correggere, ha detto: guardate che non ho sminuito il valore del curriculum, ma ho sottolineato l'importanza di un rapporto di fiducia. Sì, però Poletti, porca miseria, ma con quello che raccontiamo, con il record che abbiamo di NEET, di giovani che non studiano e non lavorano, non fanno stage, non fanno formazione, manca solo che diciamo giocate a calcetto, che questo vi dà. Allora, un conto è dire che il rapporto di fiducia non si ha solo con un curriculum e che i curricula sono importanti, ma poi c'è il colloquio, c'è... Per carità, nessuno ha detto che basti un curriculum per capire, anche se serve, se no che cosa gli facciamo studiare sti ragazzi a fare, che cosa gli facciamo fare i master, i corsi, se non serve guardare il curriculum. Ma poi, voglio dire, se l'obiettivo era dire oltre al curriculum c'è di più, e c'è anche il rapporto di fiducia, quindi sì, ma il calcetto che c'entra? Non è che io vado a giocare a calcetto con il mio futuro datore di lavoro, il quale magari devo averlo anche in squadra con me, perché se faccio il terzino e lui è un avversario e vado in tackle, magari proprio non è che il datore di lavoro mi voglia assumere se gli faccio una tibia. Ma non ho capito l'esempio, ma uno non può star zitto avendo un ministero che è delicatissimo, perché la piaga del paese, come abbiamo raccontato molte volte, si chiama disoccupazione giovanile, e tu vai infilati in questo cul-de-sac, capito? Perché poi quando entri in un cul-de-sac, come abbiamo specificato molte volte, per uscirne ci vuole un sac, un sac de cul, per cui insomma, allora, per favore, oggi Poletti si corregge: vale molto il sapere, vale molto l'essere, vale molto studiare, imparare, conoscere, vale altrettanto avere una buona relazione con la collettività. Ma che cavolo vuol dire? I disoccupati non sono lì perché sono dei misantropi, in qualche modo introversi, silenziosi, che non dialogano. Sono lì perché non c'è l'offerta di lavoro, perché il lavoro che viene offerto è di bassa qualità, perché non avete fatto ancora una legge, come chiede, lo dico così mi accuserete di fare il lavoro dell'azionista, come chiede anche Confindustria, in cui si va a ridurre il cuneo fiscale, se non annullare il cuneo fiscale per i neoassunti almeno, così c'è qualche vantaggio a prendere un ragazzo non formato, e anche per il tipo di formazione che fanno le nostre scuole. Cosa c'entra la socialità? Guardi, se c'è una cosa che non manca a un disoccupato è la socialità, è la collettività, è sempre in giro, è sempre in piazza, è sempre al bar. Cosa deve fare sto qua? Comunque, sentiamo la precisazione di Poletti. Una stupidaggine, sintetizzare in una riga due ore di confronto e dialogo con i ragazzi, dove avevamo parlato di alternanza scuola-lavoro, avevamo parlato del rapporto che quella scuola ha con il suo territorio e con le imprese, abbiamo parlato delle esperienze che questi ragazzi hanno fatto e del quanto valga, insieme al sapere, che è ovviamente essenziale, anche l'essere, cioè le cose che le persone fanno, il volontariato, il servizio civile, tutte le cose che si fanno. Quindi questo è il senso delle cose. Io credo che questo senso sia profondamente vero. Vale molto il sapere e vale molto l'essere, vale molto studiare, imparare, conoscere, e vale altrettanto avere una buona relazione con la collettività, vivere con gli amici. Insomma, io incontro molte persone che si occupano di reclutamento di personale nelle imprese e tutti mi dicono: guarda, io cerco di capire chi sono questi ragazzi e poi chiedo loro cosa sanno. Quindi questi due elementi debbono essere tenuti insieme. Il calcetto è, se volete, la metafora della relazione sociale. Io continuo a non capire, quindi ammetto la mia difficoltà a capire. Alcuni mi scrivono: guardi che il ministro ha detto malamente una verità maliziosa, non fare populista. Un altro mi scrive: ha detto una verità. Ma sapete che io non ho capito, qui sarà un problema mio, cioè a questo punto non ho capito cosa c'entra la socialità. Cioè, capisco benissimo che uno deve anche guardarsi intorno, fare esperienze con gli amici, confrontarsi, interagire, viaggiare, tutto quello che volete, ma voglio dire, nel momento in cui io guardo un curriculum, certo che se una persona avesse un problema, diciamo, di carattere relazionale e io sto scegliendo un lavoro in cui ha a che fare con la clientela o ha a che fare comunque un lavoro di relazione, non vado a prendere uno che magari è un geniaccio ma introverso, e prenderò uno che è più estroverso. Ma cosa c'entra giocare a calcetto? Io non ho capito, ammetto che vedo che alcuni hanno capito, io non ho capito cosa c'è. L'idea del lavoro di gruppo, ma quello c'è già, lo sport in fase di scuola dell'obbligo e più avanti, allora uno può dire lo sport è importante perché ti aiuta a comprendere la sconfitta, a ripartire, ti fa capire, è una lezione di vita, tutto quello che volete, ma no il calcetto giocato così, cioè, parla dello sport, boh, io non ho capito. Andiamo avanti. Oggi fatturato delle imprese italiane, delle industrie italiane in calo rispetto a dicembre, ma ancora in rialzo rispetto all'anno prima, più 1,5%. Gli ordinativi, bene gli ordinativi che rispetto al gennaio 2016 fanno più 8,6%. Allora, qualcuno mi scrive, ancora su Poletti, intendeva dire che sono più importanti le relazioni sociali che le capacità. Allora, se è così è gravissimo. Io ho capito un'altra cosa, che le conoscenze contano più del curriculum, anche questo sarebbe grave, in un paese, diciamo, che è l'esempio mondiale della raccomandazione, le conoscenze sono una cosa, muoversi nella società è una cosa, ma dire che le conoscenze contano più di un curriculum è pericolosissimo in questo paese. Poi è chiaro che qualcuno fa la battuta, certo, anche partecipare a cena e fare foto, lì c'è la famosa foto con Buzzi quando Poletti stava presidente della Lega Coop. Mi mancava questa. Comunque, restiamo in tema di lavoro, perché oggi il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, rispondendo a una domanda sul Jobs Act, ha detto l'importante è non smontare la riforma che abbiamo fatto, e lo ha detto al microfono la nostra Anna Marino. Abbiamo lanciato negli scorsi giorni una idea, che è quella di costruire un'idea inclusiva partendo dai giovani, un azzeramento del cuneo fiscale dei giovani per attrarre nelle fabbriche e nel mondo del lavoro chi è fuori dalle fabbriche e non solo tutelare chi è dentro. Vediamo adesso qual è la prima risposta e poi costruire passo dopo passo un intervento organico di politica economica per la crescita del paese nell'interesse dell'industria e nell'interesse anche del paese. Il Jobs Act non è del tutto attuato e anche per quanto riguarda il welfare ci sono altre prospettive, si potrebbe portare avanti? Assolutamente sì, l'importante è non smontare le riforme che abbiamo fatto, perché la tendenza, diciamo, a smontare le riforme prima che realizzino effetti è una caratteristica molto avanzata nel paese. Occorre mantenere quella posizione, andare avanti e costruire un paese moderno. Abbiamo e dobbiamo lavorare sulla questione produttività, non avendo più lo strumento della svalutazione, sulla produttività ci giochiamo parte della competitività di gran parte del sistema industriale italiano. E poi molto duro il giudizio del presidente Confindustria Boccia sulla manovra. Non vorrei che in campagna elettorale, per creare consenso, ci carichino di tasse le imprese che tanto non votano, perché non staremo zitti e questa volta, cito testuale, ci incazziamo. Essendo un paese particolare, io so che quando abbiamo la sensazione di essere in fase di emergenza facciamo grandi cose. Come la perdiamo, comincia la ricreazione. E siccome la mia paura è che abbiamo perso il senso dell'emergenza e che con l'idea del proporzionale possiamo rientrare in una società neocorporativa né neoconsociativa, Confindustria deve dare l'alert ogni giorno di siamo ancora nella fase di emergenza, abbiamo potenzialità incredibili, abbiamo aziende che stanno reagendo, cerchiamo di non fare passi indietro e di smontare riforme intelligenti che devono andare avanti e costruire sempre un'attenzione alle imprese. Non vorrei che l'orda, diciamo, della campagna elettorale che ci sarà tra un anno, quando ci sarà, determini il fatto che dovendo cercare consenso anziché sviluppo si carichino di tasse le imprese, tanto non votano. E noi questa volta, diciamo, non ci staremo zitti, perché bene o male non solo votiamo come imprenditori, ma questa è un'altra questione, però ci incazziamo come cittadini e come imprenditori. Allora, adesso andiamo sul meteo, la pubblicità, poi il Sole 24 Ore e la nuova, diciamo, realtà in Confindustria. Qualcuno mi scrive, e Barisoni, non hai capito, Poletti afferma che la rete delle conoscenze è la rete delle conoscenze a dare opportunità lavorative, si possono inviare i curricula e contemporaneamente allacciare rapporti con più persone possibile, non stare a casa e giocare con il computer. Allora, se è questo il tema, e cioè attenzione ragazzi, non limitatevi a mandare un curriculum, chiedete, muovetevi, siate curiosi, chiedete ai vostri amici, qualcuno mi scrive: mia figlia ha trovato lavoro grazie ai contatti con l'amico. Perfetto, da sempre in sociologia si studia che ci sono tre capitali, se non ricordo male Norbert Elias, l'autore di questa teoria, cioè capitale economico, capitale culturale e capitale delle relazioni sociali, e tutti e tre interagiscono tra di loro e si aiutano, ok? Questo va bene, ma possiamo ammettere che dire più che mandare curricula è più importante giocare a calcetto è una frase che non sta in piedi così? Cioè, perché dà l'idea che tu debba, o peggio ancora, può far pensare che è più importante se tu conosci qualcuno a calcetto che ti fa, che ti assume, piuttosto che lo studio che hai fatto. A parità di curricula poi uno sceglierà la persona, diciamo, che caratterialmente si integra in un gruppo. Allora parliamo dello sport, l'importanza dello sport, l'importanza dell'agire sociale, ma non così, dai. Meteo, pubblicità, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus economia. Minuti, adesso parliamo del Sole 24 Ore, perché ne ha parlato sia l'azionista di riferimento, quindi il presidente di Confindustria Boccia, che il presidente del gruppo Sole 24 Ore. È in corso, infatti, Sole 24 Ore deve fare un aumento di capitale tra i 50 e i 70 milioni di euro per ripianare la situazione finanziaria, come ha ricordato oggi Fossa. Ma per quello che riguarda le dichiarazioni dell'azionista, quindi del presidente di Confindustria Boccia, Boccia ha detto, insomma, la riduzione della quota dall'attuale 67,5% è possibile, in teoria tutto è possibile. Sentiamo la microfono della nostra Anna Marino. No, non ancora, stiamo aspettando, diciamo, che ci informino a livello dei amministratori sulle, appunto, ipotesi di fabbisogno, e dopodiché convocheremo un consiglio generale e dibatteremo, diciamo, sul merito. Consiglio non c'è questa settimana, noi non l'abbiamo ancora convocato, faremo un consiglio generale monotematico sull'argomento, però aspettiamo un attimo i tempi, se non abbiamo dati chiaramente non andiamo avanti. No, e noi siamo, come dire, tranquilli, dobbiamo aspettare i tempi, se non ci dicono il merito, il quantum e la modularità del fabbisogno, e non posso entrare in un consiglio generale di Confindustria per deliberare cosa, devo sapere cosa e come trovare. Confindustria potrebbe ridurre la sua quota? In teoria, diciamo, tutto è possibile. Adesso mi fa domande, cioè, sul regno del possibile, sul regno del possibile le dico di sì. Grazie. Poi entreremo nel merito nei prossimi giorni appena avremo elementi. Grazie. Va bene. E dicevamo che oggi è intervenuto, è stato ascoltato in audizione alla Commissione Unite Finanze, Cultura e Attività Produttive alla Camera il presidente del gruppo Sole 24 Ore, Giorgio Foss, il quale ha detto: l'aumento di capitale sarà tra i 50 e i 70 milioni, lo stiamo definendo, ma quella è la forchetta, quello è l'ambito. L'aumento di capitale di quanto lo stiamo definendo, come ho detto prima, con tanto più o meno le cose si leggono sui giornali, diciamo tra i 50 e i 70, insomma siamo in quell'ambito lì, come strutturarlo, perché poi ci sono tutta una serie di technicalities. Uno dei primi di Confindustria è sicuramente la ricapitalizzazione del Sole, perlomeno per quel che mi interessa. E poi la quota di Confindustria, ha detto Fossa, se Confindustria scende non è necessario che Confindustria resti al 67%, più scendiamo più il giornale è contendibile, forse più facciamo gli interessi della società. La riduzione delle quote può darsi, perché lo ha preso da lei che Confindustria scenda. Secondo me non è necessario che Confindustria rimanga al 67%. Più scendiamo e più il giornale è contendibile, forse facciamo gli interessi della società, per come la vedo io. Perché se volevi tenerti l'80-90% facevi a meno di quotarti. E poi la situazione trovata novembre scorso, la situazione economica che abbiamo trovato era molto pesante, riferita ai risultati economici al 30 settembre 2016 del gruppo Sole 24 Ore, e tra l'altro ha aggiunto Fossa, riducendo drasticamente il numero dei collaboratori esterni, riducendo il costo di ogni intervento di editorialisti terzi, ci permetterà di calmierare il più possibile il numero delle persone che purtroppo saranno in esubero. Cioè, tagliando le collaborazioni esterne conterremo gli esuberi. Infine, sulla precedente gestione, dove ricordo c'è un'indagine della Procura di Milano e della Consob, sul precedente presidente Benito Benedini, precedente amministratore delegato Donatella Treu e precedente direttore Roberto Napoletano. Poi c'è tutto un altro filone, l'abbiamo raccontato, che riguarda invece l'appropriazione indebita. Questi, i tre che ho citato, hanno come accusa la false comunicazioni sociali. Ha detto Foss: non escludo le azioni di responsabilità se ci sono le condizioni, sicuramente mi dispiace, ma non potremo fare altro, perché io in primis devo salvare la società. C'è stato, lo stanno appurando la magistratura da una parte, ma noi abbiamo iniziato un audit attraverso la società PricewaterhouseCoopers per verificare se ci sono, dal punto di vista civile, la necessità di intervenire nei confronti degli amministratori precedenti. Anche perché io ho una mia storia personale, a volte positiva, a volte negativa, ma non sono così pazzo, pur essendo pazzo di essermi preso questa patata, non sono così pazzo da rispondere per gli altri, né io, né l'amministratore delegato, né i consiglieri. Per cui, se ci sono le condizioni, dobbiamo intervenire, perché non possiamo aspettare i tempi della magistratura, perché i tempi della magistratura, soprattutto la magistratura penale, deve intervenire di fronte a un dolo. Dal punto di vista della magistratura civile è tutto un discorso diverso. Se ci sono le condizioni, sicuramente mi dispiace, ma non potremo fare altro, perché io devo in primis salvare la società, salvare le persone che lavorano nella società e salvare gli attuali amministratori, non salvare, e tutelare gli attuali amministratori. Per cui non ci sarà, il fatto stesso, già in data, credo non so se, o 13 o 16 o 17 di questo mese, abbiamo dato mandato ufficiale come consiglio di amministrazione all'amministratore delegato perché intervenisse. Oh, adesso passiamo a un'altra notizia, mi riferisco a una buona notizia, il fatto che sia nata, come spesso chiediamo, di mettere assieme tutti i punti di forza del Made in Italy, di non avere tante associazioni, iniziative, fiere, disgiunte. È nata oggi Confindustria Moda, che raggruppa le imprese associate al sistema Moda Italia, quelle associate alla Federazione Italiana dell'Accessorio Moda e Persona, quindi i manifatturieri pellettieri e i succedani, l'Associazione Italiana Pelletteria, l'ANFAO, quindi gli occhiali, Asso Calzaturifici, e quindi calzature, e Federografi. E l'obiettivo, lo chiedo al neopresidente, che è presidente del Sistema d'Italia e neopresidente di Confindustria Moda, Claudio Marenzi. Buonasera. Buonasera. Allora, Marenzi, ancora un minuto di pazienza perché ho il traffico, e poi vorrei capire perché unire. Noi da sempre diciamo che quando tu hai una filiera del valore, ormai la moda non è più il singolo capo d'abbigliamento, ma tutto quello che ruota attorno, appunto pelletteria, accessori, bigiotteria, elemento orafo, gioielleria e anche occhialeria, qual è l'obiettivo finale? Magari arrivare a un'unica grande fiera, magari avere, immagino, una razionalizzazione più alta. Dopo il traffico, la risposta: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Faircam Air and Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Allora, Marenzi, che cosa, al di là del nominalismo, vuole essere Confindustria Moda? Perché siete arrivati a associare tutte le imprese che ruotano attorno alla moda, ripeto, non solo l'abbigliamento? Prima di tutto, noi siamo Confindustria Moda, perché noi rappresentiamo la parte industriale del nostro, certo, del nostro settore. Essere insieme vuol dire associare 67.000 aziende, avere quasi 600.000 persone, un fatturato globale di 90 miliardi, un export del 54, quindi dire dei numeri che rendono finalmente importante, anche diciamo così, sia in Confindustria, ma soprattutto anche negli occhi del nostro governo centrale ed europeo, l'importanza della moda in Italia. Per dire, noi rappresentiamo, per quanto riguarda l'Europa, il 34% di tutto il settore della moda, cioè noi siamo praticamente quello che la Germania lo è negli autoveicoli, insomma. Qui a livello europeo, sì. Ecco, l'idea di mettere assieme, oltre, insomma, lei la massa critica l'ha già ricordata, 67.000 aziende, 600.000 lavoratori, 90 miliardi di fatturato, di cui il 60% frutto dell'export, e noi da soli rappresentiamo un terzo della moda europea, come fatturati, come industria, non sto parlando degli stilisti, sì, in questo caso. Certo. Per quanto poi lei nella sua vita sia anche... Sì, appunto, per quanto poi lei nella sua vita sia anche proprietario di Erno, per cui fa anche quella parte lì. Detto questo, al di là del operativamente, questo cosa vorrà dire? Maggiore capacità di pressione, di portare avanti le vostre esigenze, ma anche a livello di sistema, cioè le fiere, le missioni all'estero, pensate di mettere tutto quanto, come si dice in gergo, in sinergia? Sì, soprattutto sulla parte estero. È chiaro che soprattutto nella parte, quella che noi chiamiamo il valle, per cui tutta la distribuzione. Oramai l'abbigliamento, le calzature e gli accessori sono un unico grande mercato, non c'è più differenza, per cui lì avremo delle sinergie enormi, anche se inizialmente le fiere di settore rimarranno all'interno delle varie associazioni, perché è chiaro che la federazione Confindustria Moda è una federazione che riunisce le varie associazioni, per cui inizialmente i servizi del fattor comune saranno la parte sindacale, il centro studi, che è fondamentale per portare avanti le nostre istanze, e la parte legale di contraffazione, che è un altro tema enorme che noi affrontiamo in tutto il mondo difendendo Made in Italy. Ecco, pensate di allargarlo ulteriormente, dall'ultima domanda che ho per lei, perché vi faccio ascoltare cosa oggi ha dichiarato il presidente di Federlegno Arredo, Emanuele Rossini, presentandosi nel mobile, che sappiamo è diventato il vero evento ormai da anni a Milano, dove si integra anche la moda, addirittura anche il vino, cioè, ma il vero evento, la vera vetrina non è più la settimana della moda, ma è il Salone del Mobile, ormai si estende su un'area che è quasi difficile da delimitare, perché tra fuori salone si allarga quasi a fuori Milano ormai. Aprirà dal 4 al 9 aprile, oltre 300.000 visitatori attesi da più di 165 paesi, ci sono anche salone satellite, workplace, aeroluce, complemento arredo, salone internazionale del complemento arredo. Emanuele Orsini al microfono, della nostra Alessandra Tedesco. Il mondo Federlegno Arredo rappresenta circa 41 miliardi di fatturato, la parte arredo ne rappresenta circa 20 miliardi e sul 2015 è riuscita ad ottenere un più 2,3%, quindi contenti sicuramente di questa crescita. Di questi 20 miliardi si suddividono in due buone fette importanti: il mercato interno, che ha avuto circa, riscontrato 9,8 miliardi con una crescita del 3,1%. Il 10,3 miliardi invece fatti all'estero, quindi abbiamo svalicato la maggior parte del fatturato verso l'estero, del 51,3%, in un momento come questo è sicuramente molto significativo per le nostre aziende. Ecco, negli anni scorsi era soprattutto il mercato interno a soffrire. Che cosa ha portato a questo segno più anche sul mercato interno? Beh, guardi, noi sicuramente un grazie enorme lo dobbiamo al bonus mobili, che il bonus mobili è sicuramente per noi una parte fondamentale, anche perché, vede, abbiamo registrato negli ultimi 2 anni e mezzo che ha generato circa 3 miliardi di fatturato, mettendo in salvaguardia circa 10.000 posti di lavoro. Già nel 2017, cercando di fare una proiezione molto prudenziale, genererà circa 1,2 miliardi di fatturato. La Cina quest'anno, nel confronto 2016 con 2015, ha dato un più 21,9%, quindi con un fatturato di circa 320 milioni di euro. Io... Marenzi, possiamo immaginare che un domani questo paese, che ha sempre difficoltà a fare sistema, allarghi il Confindustria Moda anche al legno arredo, visto che ormai noi andiamo sotto la dicitura Italian Way of Living, design, cioè sistema di vita italiano, non è solo la moda, l'occhialeria, il settore orafo, il legno arredo? Beh, allora direi che a livello di associazione sarà molto difficile, insomma sono due settori completamente diversi, però di collaborazioni questo invece direi di sì, l'abbiamo anche già fatto l'anno scorso, sentivo parlare di Cina l'anno scorso, c'è stata questa bellissima iniziativa dell'allora presidente Schneider in Cina sul arredamento, dove ha portato anche delle aziende di abbigliamento, dei grandi marchi, perché è chiaro che il Made in Italy si verte su tre grandi pillars, che sono ovviamente sicuramente la prima è la moda, il food e il design, per cui insomma in effetti siamo molto siamo sempre molto coordinati su questo. Beh, devo dire che in questo sia l'attuale ministro Calenda, anche Scalfarotto, segretario al MISE, su questo ci hanno sempre aiutato e spronati a coordinarci. Devo dire che abbiamo fatto delle gran cose in questi anni. Allora, in bocca al lupo al neonato sistema moda, che appunto riunisce tutte queste diverse anime, occhiali, calzature, orafi, pelletteria e manifattura della moda, ripeto, 600.000 lavoratori, 67.000 aziende. In bocca al lupo per la nuova carica al neo presidente di Confindustria Moda, Claudio Marenzi. Adesso andiamo sul GR24, poi parliamo di borsa e anche di Cassa di Risparmio di Genova, se ce la facciamo, ma soprattutto degli ulivi. Sapete quanti sono gli ulivi in Puglia? Sono 50 milioni, di cui 300.000 secolari. Qui stiamo facendo una battaglia per 220 ulivi che vengono spostati e rimessi. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. Minuti, andiamo adesso sulla borsa. Oggi giornata positiva in tutta Europa, non eccezionale, però Milano alla fine porta a casa un punto percentuale di rialzo e Parigi lo 0,60, Francoforte l'1,30, Londra più 0,70, Dow Jones mezzo punto percentuale, Euro 1,085. Di negativo c'è poco, Buzzi Unice meno 1,70, Recordati meno 0,90, Terna meno 0,70, invece spicca il rialzo di Tenaris più 7,70%, di Saipem più 6,5%, quindi industria del petrolio, e c'è stato un leggero rialzo oggi del prezzo del petrolio, ma chiedo come sempre il commento e la spiegazione a Radio Cori sulle 24 ore. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, oggi sì, sicuramente i titoli del greggio sono sugli scudi, soprattutto a Milano, anche se a Londra, che poi è un altro listino con parecchi titoli legati alle materie prime, anche lì si sono messi in evidenza. Comunque a Milano, come ricordavi, bene Tenaris, che guadagna quasi l'8%, bene anche Saipem, più 6,5%. Devo dire che oggi il petrolio aveva iniziato un rialzo dell'1%, poi piano piano, anche con l'apertura di Wall Street, ha accelerato, adesso guadagna più il WTI più di 2 punti percentuali, e quindi questo si è immediatamente riflesso anche sui titoli legati a questo comparto. Ancora, per quello che riguarda i titoli, oltre a Tenaris e Saipem, abbiamo visto anche andare Fiat Chrysler bene più 2,90, Moncler più 2,20%. È strano che salga, diciamo, quando è finita la stagione invernale, almeno così sembra. Sì, eppure oggi ha toccato i massimi storici, oltre quota 20 euro, ma a sostenerlo ci sono anche alcuni report positivi da parte degli analisti, per quello che possono comunque valere nella giornata di oggi, che consigliano di acquistare il titolo, che comunque, insomma, come detto, sta toccando i massimi storici, ma anche altri titoli del lusso, per esempio Salvatore Ferragamo, che oggi non è andato particolarmente bene, però anche esso è vicino ai record, che sono adesso, oggi ha chiuso a 27 euro. Citavi anche Fiat Chrysler, è stata una buona seduta anche per tutta la galassia Agnelli, tra virgolette. Exor ha guadagnato l'1,9%, anche Ferrari ha continuato nel rally che è iniziato già prima del Gran Premio d'Australia ed è continuato dopo. Ferrari che adesso è un passo da 70 euro. E poi c'è la debuttante TPS che ha fatto il debutto con il botto, più 40% oggi in borsa. Eh sì, oggi ha iniziato subito bene in mattinata con un rialzo del 10%, poi è stata a lungo sospesa nel pomeriggio per eccesso di volatilità, probabilmente per la forte ondata di acquisti appunto che c'era sul titolo. Alla fine poi il titolo stesso ha chiuso a più 40%, abbastanza buoni anche i volumi scambiati, veniva sostanzialmente il flottante, cioè i titoli che sono stati portati sul mercato sono il 15% e ne è stato scambiato il 18% appunto di questo 15%. Grazie intanto a Ceo Condine. I migliori oltre a TPS sono Energy Capital più 33%, KR Energy più 14%, Monreef più 13%, Clavo più 10%, peggiori Zucchi meno 8,5%, Stefanel meno 6%, Ceramica Ricchetta meno 5,37%. Occupiamoci adesso però della Cassa di Risparmio di Genova, non tanto per andamento in borsa quanto perché è arrivata anche l'azione di responsabilità contro gli ex vertici. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Farà quindi l'azione di responsabilità contro gli ex vertici Montani, Castelbarco e Amissima, società controllata dal Fondo Apollo. Nello specifico Montani e Castelbarco, l'azione di responsabilità contro i due riguarda proprio la vicenda in cui c'è anche il Fondo Apollo, perché i due manager decisero nel 2014 la vendita della compagnia di assicurazione della banca ad Amissima, controllata dal Fondo Apollo, per 300 milioni, nonostante fossero presentate offerte di maggior ammontare. Ma insomma, non basta questo per avere un'azione di responsabilità, cioè uno può valutare anche per altri criteri. E quindi chiedo a Raul De Forcade, in collegamento dal Sole 24 Ore di Genova. Buonasera Raul. Sì, buonasera. Ciao. Perché si va verso un'azione di responsabilità, ricordando che lo scorso 22 febbraio l'ex presidente di Cassa di Risparmio di Genova, Berneschi, ha subito una condanna a 8 anni e 2 mesi per la maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova. Sì. Raul. Sì, l'azione di responsabilità verso i vecchi vertici, gli ultimi vertici prima di Bastianini e Tesauro, avviene perché il Consiglio di amministrazione attuale ritiene che in qualche modo il presidente, l'ex presidente e l'ex amministratore delegato abbiano, come dire, favorito Apollo rispetto ad altri possibili acquirenti per il ramo assicurativo, l'abbiano venduto a un prezzo minore di quello a cui era possibile vendere e abbiano così favorito anche una richiesta di aumento di capitale di Apollo che voleva, come dire, acquisire a un prezzo molto basso i non performing loans della banca. Ecco. E in questo modo cosa spera di ottenere la nuova gestione della Cassa di Risparmio di Genova? Con l'azione di responsabilità, certo. Loro sperano di avere un risarcimento molto alto che hanno quantificato in 1.250 milioni, insomma, di euro. Beh, un risarcimento mostro, come si dice in questi casi, no? Esatto, sì. Ma verrebbe rimessa in discussione l'interoperazione, no? Potrebbe anche essere rimessa in discussione l'operazione in questo senso, sì, se per caso fosse dichiarata in qualche modo illegittima. Vabbè, e quindi comunque la procedura è stata avviata a questo punto perché l'ha votata l'Assemblea e quindi sì. 76% di voti favorevoli, 23% astenuti e 0,1% contrari, appunto per il risarcimento da 1.200 milioni. Tra l'altro oggi ha approvato anche il bilancio consolidato 2016 con una perdita di 313 milioni e tra l'altro una crescita del margine operativo del 9%, e il portafoglio crediti deteriorati, non performing loans, sofferenze, insomma fine anno era pari a 7 miliardi e 300 milioni lordi, 4 miliardi in termini netti. Grazie anche a Raul De Forcade. Andiamo sul traffico e poi invece la vicenda annosa ormai degli ulivi pugliesi e le tensioni anche oggi, ma fatemi poi raccontare due tre cosette. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, in Puglia ci sono 50 milioni di ulivi, circa, non li abbiamo contati tutti, di cui addirittura 300.000 secolari, che furono oggetto anche di inchiesta della magistratura per la compravendita illegale rivolta soprattutto al nord Italia. Mi scrive un ascoltatore: guardi che per il raddoppio della statale Maglie-Otranto, lunga circa 20 km, sono stati spostati circa 8.000 ulivi, alcuni dei quali riposizionati ai margini della nuova sede stradale in maniera anche più bella e ordinata. Mi fido. Il problema è che qua qualcuno mi scrive: guardi che lei è un mistificatore, noi, il gasdotto dunque dov'è? Il gasdotto, la battaglia è per l'inutilità del TAP. Allora, vediamo di capirci. Se qua iniziamo come con la nazionale di calcio, che ognuno di noi è un CT, allora è ovvio che non facciamo più nulla. C'è un gasdotto che deve portare il gas in Europa, anche in Italia, visto che sempre ricordiamo che abbiamo delle fonti di approvvigionamento un po' rischiose, penso all'Algeria e al gasdotto che passa per l'Ucraina, come qualcuno di voi ci ricorderà, 3 anni fa, quando ci fu la tensione, venne bloccato il passaggio del gas. Abbiamo sempre detto che bisogna avere anche nuove fonti, nuovi canali d'accesso. Il gasdotto TAP, Trans-Adriatic Pipeline, è un gasdotto da 877 km, 550 in Grecia, 215 in Albania, 8 km in Italia, 104 nel Mar Adriatico. Dalla frontiera greco-turca deve portare il gas che proviene dal Mar Caspio, 10 miliardi di metri cubi l'anno. Ora, io non sono un esperto di gasdotti, ma secondo lei, lo dico a chi mi scrive, il TAP è inutile. Immagino che lei sappia tutto di gasdotti e immagino che lei ritenga che siano dei dementi i gruppi che hanno messo i soldi per fare questo gasdotto, e quindi il 20% di Snamret e Gas, il 20% di British Petroleum, il 20% del gruppo Socar, che è un gruppo a zero, il 19% l'ha messo il colosso belga Fluxys, il 16% il colosso spagnolo Enagas e il 5% la Svizzera Axpo. Cioè, tutte queste società e questi paesi non capiscono nulla, secondo alcuni ascoltatori, perché mettono i soldi in un gasdotto inutile. Altri fanno notare che il gasdotto servirà non solo all'Italia e altri paesi. Certo, è infatti un obiettivo del nostro paese è anche diventare l'hub del gas, lo abbiamo chiarito molte volte, proprio per la sua posizione geografica. Ma quello che mi fa impazzire è che qua tutti diventano esperti di tutto. Io leggo testualmente: allora, oggi Sassi contro la polizia, leggermente contusi due agenti. Il governatore Emiliano, che ho cercato, abbiamo cercato, però oggi tra la conferenza Stato-Regioni e forse questa vicenda non poteva rispondere, ed era davanti ai cantieri del TAP, ha detto: il governo è incapace di ascoltare la Puglia, utilizzando il massiccio spiegamento di forze che oggi è stato predisposto. E il governo dà la misura della sua incapacità di ascoltare e elaborare le richieste di una regione intera. Faccio notare che Emiliano soprattutto si era concentrato sull'espianto degli ulivi. La regione Puglia considera non ottemperante la prescrizione 44, quindi secondo noi lo spostamento degli ulivi è illegittimo. Questo già quando ci furono le prime tensioni, il 21 marzo. Se si forza si rischia la reazione popolare. Io dico, ma stiamo scherzando? 8 chilometri interrati di 10 metri per spostare 220 ulivi e poi rimettere lì? Tra l'altro tutto nasce perché ieri, dopo che la Regione Puglia aveva bloccato, faccio notare che il Dipartimento dell'Agricoltura aveva dato via libera dalla Regione, il Dipartimento Ambientale no, ma il Ministero dell'Ambiente italiano sì. Oggi, cioè ieri, il Ministero dell'Ambiente italiano e il Consiglio di Stato hanno ribadito il via libera, quindi la polizia che viene presa a sassate va lì per far rispettare una decisione del governo di questo paese. Ok, poi uno può dire il TAP non serve, ci scalderemo con le biomasse, si scrive qualcuno ridendo, tagliando gli ulivi, ma insomma praticamente avrà una profondità di 10 metri, intorno ai 10 metri, e passerà per 8 km in questo famoso pezzo a Melendugno in Puglia, e gli ulivi verranno rimessi lì perché la talpa deve partire da lì. Il diametro sarà di circa 3 metri e realizzato a 10 metri di profondità, per metà sottoterra e per metà sotto i fondali. Domenico Palmiotti, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Tanto, com'è la situazione a Melendugno, dove sta diventando una battaglia tutta ideologica, ma bene, ma ripeto, un sindaco io lo posso, non dico capire, ma insomma ci arrivo. Che lo faccia un governatore di una regione che dovrebbe avere un profilo istituzionale più alto, che tra l'altro è candidato alle primarie del PD e quindi nella sua logica si candida a governare il paese qualora il PD dovesse vincere le elezioni, la domanda che prima ci siamo fatti è: cosa farebbe l'eventuale presidente del Consiglio emiliano di fronte a questo? Starebbe con lo Stato italiano che rappresenta o starebbe con la sua regione d'appartenenza? Perché questo, cioè, è il riflesso poi politico. Ma insomma, dimmi delle tensioni, dimmi se tutto il tema non è lo spostamento verso Brindisi, che però mi sembra più lungo di 60 chilometri. Prego. Allora, la giornata di oggi è stata molto molto tesa. Già questa mattina la polizia ha cinturato, diciamo, il cantiere TAP, perché appunto si doveva riprendere l'espianto che era bloccato da circa una settimana, ed è stata una giornata delle ore molto tese, molto dure, e dove la polizia ha cercato anzitutto di contenere l'assedio dei manifestanti e poi alla fine è riuscita in tarda mattinata ad aprire un varco. I primi 5 mezzi con gli ulivi espiantati, ulivi che vengono espiantati temporaneamente per essere reimpiantati in un altro sito, sono transitati dopo le 13. Nel pomeriggio sono transitati altri camion, presumibilmente si lavorerà ancora per altre una decina di minuti, poi viene il tramonto e quindi il lavoro sarà sospeso, e TAP conta alla fine della giornata di espiantare altri 30 ulivi che si sommano ai 30 già espiantati lunedì scorso. In tutto sono poco più di 200 ulivi nella zona. Però il clima rimane molto teso. Ma qual è il... adesso io non ci posso credere che in una regione che ha 50 milioni di ulivi il problema di spostare temporaneamente 220 ulivi sia qual è? Che cosa temono? L'inquinamento da gasdotto? L'opposizione che salda sindaci della zona, molti sindaci della zona, 5 Stelle, il presidente Emiliano. Sì, tra l'altro Emiliano si è preso anche uno schiaffo dei 5 Stelle, perché Grillo ha detto: Emiliano, dovresti svegliarti o dimetterti, hai avuto diverse possibilità per cercare di evitare tutto questo, non hai mai fatto ancora nulla, datti una mossa. La Puglia ha bisogno di essere governata da un presidente, non da uno showman, quindi dimostrazione che lo spostamento di Emiliano verso le ragioni dei 5 Stelle non è che abbia creato un clima di consenso con il 5 Stelle. Comunque, ti interrompo. Dicevo che, ecco, che questa protesta, più che riguardare il gasdotto in sé, riguarda la localizzazione a Melendugno. Ha sempre riguardato la localizzazione a Melendugno, perché sindaci e regione, movimenti ambientalisti, no TAP, ritengono quella localizzazione dannosa e che compromette l'ambiente. E ma si vedrà sto gasdotto? No, 10 metri sotto. E chiedono che questo gasdotto inizialmente fosse spostato a Brindisi. Adesso, negli ultimi giorni, ma anche oggi, Emiliano ha rilanciato il sito di Squinzano, che è sempre nel Salento, però è un po' più a nord rispetto a Melendugno. Tutto da vedere poi se quella comunità accetterà la localizzazione del gasdotto, fermo restando che ovviamente spostare l'approdo del gasdotto richiederebbe di rifare la progettazione, richiederebbe di rifare la valutazione di impatto ambientale, insomma richiederebbe tanto tempo per 8 in chilometri. Più quando invece il gasdotto dovrebbe arrivare il primo gas intorno al 2020. Scusami Domenico, invece che Melendugno dove? Perché... Squinzano, che Squinzano. È sempre nel Salento, però è un comune un po' più a nord. Ma cosa sono, figli di un dio minore quelli di Squinzano? Cioè nel senso a Melendugno no, ma Squinzano sì, no, chiedo. O lì non ci sono Emiliano ulivi. Dice che lì c'è un'area industriale che potrebbe accogliere le opere finali del gasdotto, ma soprattutto, secondo il governatore della Puglia, non compromettere l'ambiente. Ma siccome io posso dire che non ho capito, aiutami tu, in che cosa, visto che l'espianto è temporaneo, verrebbe compromesso l'ambiente? Cioè sta pipeline è 10 metri sottoterra, in una zona in cui Salento, zona bellissima, dove però non è che sia stata risparmiata dall'abusivismo edilizio, no? Lo dico perché ci occupiamo sempre dei tubi a 10 metri sotto, poi sulle casette costruite sopra prova a batterne una in sto paese, ma dico, dov'è il danno ambientale? Sai che non riesco a capire? Ma adesso il danno ambientale viene collegato all'espianto degli ulivi, ma poi viene collegato al fatto che il gasdotto transiterà sia pur coperto, sia pur sottoterra. Ma che deve fare un gasdotto a un certo punto? Scomparire, no? Dimmi. e quindi si contesta, si ritiene che proprio la localizzazione del gasdotto, a prescindere dagli ulivi lì, sia un attentato all'ambiente, sia un qualcosa che compromette la vocazione turistica dell'area. Ma se non si vede, allora, a parte il fatto che se ci tengono così tanto alla vocazione turistica dell'area, potrebbero fare anche interventi più di superficie, visto che andiamo a vedere com'è messa quell'area in generale, ripeto, l'abusivismo edilizio non è una parola sconosciuta, ma è anche alcune zone dove ci sono i rifiuti, scusatemi, rifiuti ambientali in Puglia. Ma io non ho capito, se non si vede, che danno ti fa? Cioè, l'Italia è attraversata da gasdotti, nel senso che non è il primo gasdotto del nostro paese. A Tarvisio arriva il gasdotto TAG dalla Russia, al Passo Greis arriva il TEMP dall'Olanda, a Mazara del Vallo c'è quello dall'Algeria, a Gela c'è il gasdotto Green Steam, in Emilia Romagna c'è, in Emilia Romagna a Ravenna hanno fatto, cioè voglio dire, e tra l'altro attraversano le Alpi, che se vogliamo come sistema, come ecosistema, sono ancora più delicati. Cioè, io non ho capito quale sia il problema, veramente. Oggi evidentemente sono un po' lento. Ormai però la battaglia si è radicalizzata e quindi Melendugno cerca di contrastare in tutti i modi, in tutte le forme, questo l'approdo del gasdotto. Ecco, ieri il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Regione Puglia contro l'autorizzazione unica del MISE, ha detto che quell'autorizzazione unica è perfettamente legittima, è stata rilasciata regolarmente, è stata osservata la procedura di leale collaborazione fra diverse amministrazioni dello Stato. Oggi invece è arrivato il nuovo parere del Ministero dell'Ambiente, che ribadisce testualmente quanto aveva appena detto venerdì dell'altra settimana, cioè che TAP tutte le prescrizioni relative alla fase dell'espianto degli ulivi le ha rispettate, e questa fase viene chiamata tecnicamente fase zero, non c'entra nulla con la costruzione del microtunnel, che è disciplinata da fasi successive, da prescrizioni e autorizzazioni ben diverse. Eppure oggi Emiliano ha impugnato, ha annunciato che impugnerà al TAR anche quest'atto del Ministero dell'Ambiente. Il ministro Galletti gli ha risposto pochi minuti fa dicendo è nelle sue facoltà impugnare l'atto della Commissione VIA, però è del Ministero dell'Ambiente, però sì. Ricorda Galletti a Emiliano, la Commissione VIA ha fatto un esame molto scrupoloso sulla zona, sul progetto, e ha sempre ritenuto che la localizzazione di Melendugno fosse la meno impattante. Insomma, è il Ministero dell'Ambiente, non quello delle attività produttive, che parla, il ministro Galletti. Poi possiamo anche non fidarci del Ministero dell'Ambiente, ci fidiamo solo di Emiliano. Faccio notare due cose. Chi mi chiede, ma perché se a meno 10 metri bisogna levare gli ulivi? Perché bisogna costruire questo microtunnel che ospita all'interno, cioè che deve far entrare la talpa cosiddetta, quella che apre il buco, insomma, farci capire. Quindi da qualche parte deve entrare sta talpa e bisogna spostare sti ulivi e rimetterli lì. Tutto bene, io continuo a invitare il governatore Emiliano a occuparsi anche dei 184 milioni di euro di spesa che la regione ha ogni anno per i pugliesi che vanno a curarsi fuori dalla Puglia, che mi sembrano un po' più importanti di 220 ulivi, ma forse le battaglie populiste si fanno in altro modo. Noi ribadiamo l'invito ad averlo in trasmissione, grazie intanto a Domenico Palmiotti, a tutti esperti di gas. Io mi chiedo, ma se invece che il gas fosse passato una fibra ottica? Perché il gag della fibra ottica fa bello, fa figo, il gas è sporco, peccato che quando poi devi cucinare per tuo figlio non cucini con la fibra ottica, o meglio, mi auguro di no. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.